Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Dal 1 al 6 gennaio del 1848. Una buona giornata, edizione speciale del Gazzettino del Risorgimento dedicata ai tumulti che sono scoppiati in Lombardia in diretta da Milano. Paolo Piacenza. Paolo. Sì, buongiorno Simone. La tensione che poi è esplosa in città era palpabile da giorni. Un certo professor Giovanni Cantoni ha fatto distribuire nei giorni scorsi un volantino nel quale si spiegava l'impatto economico sulle finanze austriache delle tasse sul tabacco, incitando i sudditi dell'imperatore milanesi e lombardi ad astenersi dal fumare a partire dal 1 gennaio. La voce si è sparsa nel giro di poche ore. Tra il 1 e il 2 gennaio sembrava che tutti i milanesi avessero lasciato da parte l'abitudine di gustarsi un buon sigaro. Anzi, chi veniva sorpreso a fumare era vittima di ingiurie, quando non di aggressioni. Il barone Torresani Lanzefeld, a capo della polizia, ha ideato rapidamente questo stratagemma. Ha mandato in giro i suoi uomini in borghese, uno davanti che fumava ostentatamente, altri tre dietro pronti a intervenire. Anche Radetzky non è stato da meno. I suoi soldati sono andati in giro per giorni fumando ostentatamente. È a questo punto che sono scoppiati i tumulti a Pavia, a Padova, ma soprattutto a Milano, dove si è scatenata la violenza, e al termine degli scontri i feriti erano 59. 5 di questi, ricoverati in gravissime condizioni, sono morti poco dopo in ospedale. E da Milano è tutto. Grazie Paolo Piacenza. È tesa la situazione anche a Roma. Angelo Brunetti, di professione oste e di soprannome Ciceruacchio, ha organizzato per il primo giorno dell'anno un'imponente manifestazione in Piazza del Popolo. Brunetti ha tentato di fare pressione su Pio IX, del quale è un acceso sostenitore, perché ha l'impressione che gli elementi conservatori stiano prevalendo nella curia. Il giorno dopo il Papa ha percorso le strade di Roma per andare dalla sua residenza al Quirinale alla Basilica Vaticana. In via del Corso, via Fontanella Borghese, via dell'Orso, è stato accolto così. Ma da segnalare che si sono sentite anche grida contro la polizia e i gesuiti. In zona si segnala anche la presenza della nobildonna lombarda Cristina Trivulzio di Belgioioso, che molti ritengono vicina al rivoluzionario Giuseppe Mazzini e che ha voluto incontrare lo stesso Ciceruacchio. Ed è tutto. Sul nostro sito potete anche scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie. Visitate come sempre il nostro blog o la nostra pagina Facebook e lasciateci un commento. Fatelo prendendo penne e calamaio elettronici. L'indirizzo è sempre gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza. Una buona giornata.